Allora, acqua negra, che giorno è oggi? Ecco, 15. 15 luglio 1967. È l'inizio della riunione preparatoria per, non so, un convegno nazionale per formare eventualmente una federazione di gruppi, no, che hanno degli interessi così, culturali abbastanza comuni. Io non è che abbia niente di particolare da dire. No, proporrei invece un ordine del giorno di questo tipo, cioè il perché facciamo le riunioni preparatorie e poi che ognuno così, no, dica un po' quello che avviene nella sua zona, perché a me questo sembra una cosa molto importante, cioè uno scambio di esperienze, no? Che può essere soprattutto molto utile, cioè il contenuto della riunione alla fine può anche essere solo quello di scambiarsi delle esperienze. Scambiarsi dei servizi naturalmente, no? E via di seguito. Questa riunione a carattere nazionale per l'eventuale formazione di una federazione, probabilmente non potremo farla se non in novembre, perché adesso ci sono queste riunioni preparatorie. Io vengo via da Roma dove stanotte ne abbiamo fatta una, no? Però loro devono preparare quella del centro-sud. Il 22, cioè sabato prossimo, è a Firenze per quelli della Toscana, no? Oggi noi facciamo questa e poi ci sarà a Venezia, credo, quella dei Veneti, e poi a Milano una per il Piemonte e la Liguria. Dicevo che non sarà possibile però fare una riunione poi nazionale, se non forse in ottobre o novembre, perché adesso ci sono alcuni occupati del nuovo canzoniere, vanno a Cuba. Appena ritornano, devo preparare l'apertura del Gerolmo, quest'anno facciamo noi con tre spettacoli, cioè uno da Giovanna Marini, il titolo non c'è ancora, ma ci sarà domani, perché la Giovanna si incontra domani col Pippo Crivelli e quindi decideranno. Il secondo è della Giovanna Daffini con i Modena, credo. E il terzo di Ivan Della Mea con quelli della Linea Rossa, no? E poi probabilmente a ottobre avremo impiegato a Parigi per Bella Ciao, e quindi adesso facciamo queste riunioni preparatorie e poi decideremo questa data di riunione in cui ognuno porta le sue esperienze e vediamo se ci sono dei denominatori comuni che possono portarci, non è che debba essere eventualmente a federare quei gruppi che si sentono più omogenei, che hanno dei servizi da scambiarsi e via di seguito. L'idea al limite sarebbe questa, cioè di fare una federazione di gruppi di questo tipo, no? Cioè gruppi nuovo canzonieri che sono numerosi, leghe culturali, eccetera, o comunque tutti quelli, circoli, no? Che vogliono andare in una certa direzione, cioè lo studio, l'analisi della cultura alternativa, eccetera, no? La presenza, l'importanza storica della base, nel rinnovamento politico, eccetera, ci servono degli strumenti oggi adatti a queste cose. E al limite però arrivare anche a questo, cioè che la federazione è l'organo che coordina tutto il lavoro e quindi anche si serve, la federazione si serve di strumenti di lavoro e di comunicazione tipo Nuovo Canzoniere, Linea Rossa, Edizioni del Gallo, Istituto Ernesto De Martino, eccetera, eccetera, cioè rovesciare il rapporto, no? Questa è un po' così l'idea. Non so, probabilmente sono molto confuso, ma mi dovete scusare perché sono stanchissimo. Comunque nel corso poi della riunione queste cose le riprendiamo. Adesso direi semplicemente ci presentiamo e poi, non so, attacca uno e così racconta un po' quello che fa, no? Allora c'è Taddei, mi pare, Mantova, Silvio. no? Poi tu di dove, come ti chiami? Io? Cappuccelli. Cappuccelli di dove? Cappuccelli. E io sto a Guastalla adesso con A lui. Guastalla. Ecco, poi c'è il Doppo di Voltido, c'è Renzo Aristolao di Albino, c'è Riccardo Svamental di Bergamo, c'è Franco e diversi qui di Acquanegra, c'è Giuseppe di Piadena, voi siete di Carpi, no? Poi c'è il Bruno di Modena, poi Sempre Guastalla, il gruppo che ho invitato io. ecco, noi abbiamo ricevuto poi invece una lettera del gruppo Free che non può perché non ha. Infatti l'ho telefonato dicendo che aveva degli altri impegni. Ecco, Poi manca invece il gruppo Padano di Piana, perché stasera canta Crema, qualcosa di simile. Ecco.